Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e benvenuti alla 37esima puntata del Pinsimonio radiofonico. I termini di oggi sono a tema ambientale, tranne uno che è riferito a una vicenda di pochi giorni fa che per fortuna si è conclusa in modo positivo. Le parole di oggi sono caregiver, medicane, eustatismo, subsidenza e antropizzazione. Cominciamo con caregiver, che è un termine anglosassone ormai entrato stabilmente nell'uso comune, che indica colui che si prende cura e si riferisce naturalmente a tutti i familiari che assistono un loro congiunto ammalato o disabile. Il termine si riferisce a una notizia di pochi giorni fa e parla del caso di Erika, una ragazza di Carpi che da anni accudisce la madre, a cui era stata negata l'iscrizione alla laurea magistrale in ingegneria elettronica perché le mancava un solo punto nel voto di laurea, 84 invece che 85. Erika si è battuta perché la sua condizione di caregiver, che è a tutti gli effetti considerabile come un'occupazione a tempo pieno, venisse equiparata a quella delle studentesse lavoratrici, una categoria che, secondo il regolamento universitario, ha il diritto ad un bonus di 2 punti sotto la soglia di sbarramento per l'accesso alla laurea magistrale. Riconoscerle questo diritto è il primo passo per il riconoscimento di una legittima esigenza sociale, che riguarda in Italia più di 7 milioni di persone, la cui condizione non è ancora pienamente riconosciuta dal punto di vista previdenziale, sanitario e assicurativo. Ci auguriamo quindi che questo riconoscimento avvenga il più presto possibile e facciamo i nostri migliori auguri a Erika per il suo percorso di laurea. Continuiamo con Medicane, che è un ciclone tropicale mediterraneo. Il termine Medicane è nato dalla fusione dei termini inglesi Mediterranean e Hurricane e indica un sistema a bassa pressione caratterizzato da piogge torrenziali e forti venti, che tipicamente compare nell'area del bacino del Mediterraneo. I cicloni tropicali sul Mediterraneo, per quanto anomali, si sviluppano per transizione tropicale, un processo caratterizzato dalla trasformazione di un ciclone extratropicale in un ciclone tropicale, ed è un fenomeno che si è verificato sempre maggiormente negli ultimi anni. Continuiamo con eustatismo, che è in geologia ogni variazione relativa di livello tra le masse oceaniche e continentali, che consegue a variazioni del livello medio marino, provocate per esempio da una fase glaciale o dal successivo scioglimento dei ghiacci, e che produce trasformazioni di vario genere sulle coste marittime di tutta la Terra, come la formazione di successioni di linee di costa, di terrazzi marini o fluviali, o l'allagamento dei terreni inferiori al livello medio del mare. Termine legato a eustatismo, che indica però un fenomeno che va nel lato opposto, è subsidenza, che deriva dal latino subsidentia, ossia sedimentazione. La subsidenza in geologia è il movimento di abbassamento di una regione e in particolare del fondo di un bacino sedimentario, che tende a cedere e ad abbassarsi sia per il peso dei sedimenti che vi si accumulano, sia a causa del continuo movimento della crosta terrestre. Per estensione, la subsidenza è l'abbassamento di porzioni più o meno ampie di terreno, da attribuirsi al costipamento naturale di strati compressibili sotto l'azione di carichi forti ed estesi, o talora all'attività dell'uomo rivolta all'estrazione di sostanze fluide o solide dal sottosuolo, come l'estrazione di ingenti quantità di acqua dalle falde freatiche o l'estrazione dei prodotti petroliferi. Sono fenomeni di subsidenza quelli che minacciano Venezia, il Duomo di Milano, la Torre di Pisa o il Delta del Po. Quindi l'eustatismo è l'innalzamento di livello medio del mare, mentre la subsidenza è il fenomeno che indica l'abbassamento di una regione di terreno. Questi due fenomeni sono correlati e spesso avvengono contemporaneamente, contribuendo al verificarsi di episodi come quello che ha riguardato la città di Venezia la settimana scorsa. L'ultima parola di oggi invece è antropizzazione, che è in ecologia l'intervento dell'uomo sull'ambiente naturale allo scopo di adattarlo e quindi trasformarlo e alterarlo, spesso con effetti ecologicamente nefasti, al servizio degli interessi umani. Ne sono un esempio l'agricoltura, il disboscamento, la costruzione di abitazioni ed impianti agricoli oppure industriali. E con questa parola termina la puntata di oggi. Io vi ricordo che il Pinsimonio radiofonico lo potete ascoltare alle 9:15 il martedì, mercoledì e giovedì sui 103.1 di Radio Città Fujiko. E inoltre è disponibile anche il podcast alla pagina Facebook Il Pinsimonio radiofonico, alla quale vi invito ad iscrivervi. Buon proseguimento sui 103.1. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con 2 O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. prossima. Grazie e buona giornata. Il Pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.